Avanti, Manuel. Sì, ciao qua, un attimo che mi hanno suonato la porta, aspettate voi. Siamo Bobotti e me. Cos'è? Bobotti. Ah, mi sono detto un brutto qua. Hai visto a Mitti cosa è successo? Ma lì dovevano essere più attenti, capito? Perché come il sindaco di Olbia e tutti i sindaci del centro sud di Sardegna hanno dato l'allerta meteo, Ghito ha dato l'allerta meteo che andrai a incasinata, che andrai a incasinare lo paese, capito? Che i bambini non li puliscono mai, l'estate non gliela frutti nulla, arriva l'inverno e ciao. Ah, Tony, quello che è morto c'è più un pastore, è andato in campagna a dare a mangiare il bestiame e cazzo con questo tempo. È chiaro che devi andare per forza, perché i pastori sono quelli che non temono niente, né acqua, né ghiaccio, né neve, però se ci fosse stata l'allerta meteo prima sicuramente non ci sarebbe mosso, sta buttando tutto. Beh, due morti o tre morti, qualche disperso. Catte Olbia, Cleopatra, sette morti, quindi è un casino, è un casino. Qua sta piovendo, tutta la sera sta piovendo qua, sasse. No, poco di tregua c'è, non sta piovendo questo momento, ma era tutto la lipa che le dai. Avanti, Antonio. Cappa, buonasera Antonino, buonasera. Cappa. Prendiamo, ma hai smesso allenare un pochettino? Un po' ha smesso, però ne farà. Comunque mi sa che domani c'è il sole. Non è adatto di acqua domani, non è adatto, però c'è sempre l'allerta meteo sino alle 18. Ecco, domani se migliore è meglio, dai. Allora bacia leva. Potrà far solo la notte, no? Tutto lì. Ho già di qua. Cucci la pigliata. Ehi, a pigliarla, ci arrangia intanto, tempo sciue. Riprendete un minuto che arrivo subito, vai Tony. Cappa, d'accordo qua. Niente, adatto il sindaco di Sassari, se è possibile non uscire meglio. Me la butta assai, io già sono in casa. Tanto la spesa me l'ho già fatta, quello che mi dovevo prendere, l'ho già fatto, ecco che me la butti. Ah, io la spesa la sono fatta ieri sera, quindi niente, oggi tanto per cambiare mi sto facendo un bel brodo di pollo, con tanto di patate, cipolle, carote, sedano, un bombò. Ciao, vabbè, a voi mi pare che fosse un po' caretto lì. Siamo un po' caretto di roba fritta, va, tipo tropicini e roba così, e si mangiano a stessi. Ah, io roba fritta, un po' più lontano possibile perché fa male il fegato, roba fritta. Ma io vieni a tu, a parte Manuel, c'è anche Franco, giusto? Cappa, anche Franco, avanti qua! Franco, il problema è che non sia come oggi, per carità, va a marcia che sei, va. Che zona sei tu, Franco? Ho detto che zona sei. C'è un mantenino, c'hai? La zona mia dovresti arrivare a Momaga. Perché io avevo il carabino lì, le dico a fotoscala, non sta più entrando, boh. Perché quanti mi temi hai tu adesso? Ce l'ho più lungo io, e io l'ho aggiunto con lo spezzone per entrare fin qua. Un attimo, telefono, ripieni tu. Cappa. Già va bene, dai. L'ho fatto comunque, che non te ne è buccata dentro. L'ho fatto. Quando l'ho vista. Sicuramente è per la fanno per scorrere l'acqua, no? Ci vuole il nastro e il grasso ci vuole per non entrare. almeno scivolare non hai problemi. Ah, non sei tu, non sei uscito. No, ci vuole così, vuole il vuole fatto così, vuole messo, utilizzate più il grasso in quello filo. Tutto bene, ne gira e non ha problemi. Cioè quella però la mia quando l'ho tolta era nuova, nuova a cavolo. Perché l'avevo venduta poi e chi ce l'ha è contentissimo. No, oh, la boomerang. Lo so. Oh, qua già pompava già. Mica tanto. Mica tanto, lo stilo centrale deve sempre radiare, né, né, cioè deve radiare. È solo una sola massa, no, non è, non è un secondo me non è proprio direttiva. No, dove l'ha buttata a me, io arrivavo un po' forte un po' dappertutto quando ce l'avevo io. Io sul tetto ce l'avevo. E dall'altra parte, non proprio in zona di mare. Ma cosa cazzo? Lascia perdere. Ma poi infine chi dà un piano? Io commenti cosa posso dire? Un piano di massa, amico. Quello che radia è quello che c'è su. Quello che dà tutta la potenza. Scappa, che vuole entrare, avanti? Uè, ci sei? Chi stai parlando? Oi, Popponi, la sesta alternata. Vabbè, non lo so neanche io, la verità adesso. Con chi stai parlando? Franco stavo parlando. Sì, California. Ehi, segnare uno, e viva di più. Che sta facendo tutto casino. Qualcuno che non sta uscendo. Aspetta, cambia il baracchino un secondo che il microfono che stava prendendo la base più che altro. Fatta proprio stasera è il microfono. 2 minuti. E ok adesso. E avanti! Sono tornato. E cappa a me. C'era a fare le pomponi c'era. Scappato. Cambiando baracchino perché ha problemi. Ogni alternata, voce. Dica, è pietà. Poi don cagna gallino. Io stavo cercando su internet per trovare qualche baracchino, stazione fissa a comprarlo. Ce ne sono tanti, ce ne sono. Ma ce n'era anche uno, non so se l'ha venduto. Che lo stavano vendendo, un Galaxy Saturn. Ce l'ho anch'io quello lì, non me ne compro un altro. Ne ho due, uno l'ho dato via, ma... Ah, ho capito. Ce l'ho avuto anche io quell'apparecchio lì, era buono, era. Io l'ho già avuto tanti, tantissimo tempo fa. E ultimo, ce l'ho adesso, sto modulando con quello lì, infatti. Ma gannonata, E compriamo, ti sposa bene. Franco, guarda c'è qua, sì. Franco, ci sei? Sono entrato. Ciao, Colì, ciao, Colì. Ben sentito. Beh, un po'. Dici che mi hai alternato poco fa, sei un po' di macello. Vabbè, il baracchino, cioè, il microfono che mi stava facendo le balle più che altro. I DSI. Ma sto succedendo con la FM 500S, quindi non è questo mio limitatore. Questione di microfono, adesso... sono arrivati a vedere tutti dove il coso, con il 4000, il microfono a tavola e sono a posto. E me lo riesco bene. Tanto bello, Brittella. Via, va. fuori di vicenda, dai, di casa. Ce la riprendiamo dopo, come se facciamo la volta. Questo è l'unico FM500S che mi è rimasto con l'RGBT MB4, non ce n'è altro in giro, l'unico è questo. Oh, io vi devo lasciare, vi devo, dai, ce la risentiamo dopo. Ho un po' di vicenda di casa. Ciao ciao, ce la risentiamo dopo. Ciao, buon pomeriggio, alle pace mie. Ciao Antonio, ci sentiamo, Francesco. Ciao. Ciao Antonio, ci sentiamo alle prossime, stiamo bene. Buon condito, buon tutto, buona cena, eccetera, eccetera. Vabbè. Ioria, vabbè, io ho cambiato nuovamente sinfonia, intanto visto che non sta più piovendo, fumi e giorni non ce ne sono. Allora, Boni, com'è? Ciao Antonio Bush. Com'è? Ho sentito Walter e c'è anche che lui ci aveva passato il Covid. Pesca in Italia. Sì, ma c'è stato a casa. Capito? Invece c'è in giro, c'è la mascherina, c'è la nuda. Peggio per lui. Io mascherina fisso mattina e sera e quando sono a casa me la capo boh. Niente, qua mi sto facendo un bel brodone di pollo, non è cosciuto il pollo, patate, cipolla, carote, sedano, un mammo. Buono, buono, con questo freddo non è che abbiamo mangiato, non me la cacciata. E stanotte abbiamo deciso di fare pizza. Capito? Mangiamo pizza, giusto così. E vediamo come fare. E io ne avevo voglia un bel bordino a piatti. Poi mi piacciono i minestrini ai fiocchetti. Mi ricordo quando la buona di mamma me la faceva, ragazzi, proprio buona. Mi è venuta una gana, ha detto me, avevo solo rosso. Me l'ho messo lì all'insieme, pulire tutto quanto, preparare il tutto. Messo il fuoco. E mi fa che se porto alle 8 e 4, 8 e mezzo mi va bene. Mi fa cucino i minestrini con brodo. Ci ho messo 2,5 litri di acqua di bottiglietta perché io non le metto a dormire. Quando faccio il brodo minestrone, acqua di bottiglia. Ci vuole. E ci vuole. Stavo ascoltando anche la partita. No vabbè. Ripeti Antonio. Allora può cucinare le pizze, anzi le pizzette sono, con i rossi, ma è tutto mi dà la testa, ma già la cattuglia non ha idea, e poi c'ho gli occhi pieni di cose, la palcuna, mi hanno abbassato la testa con l'acqua, il sudore, la patata di panna agli occhi, ho pigliato il collirio, adesso dopo quando ho finito me lo metto, e poi mi sono lavato. Bravo, si è ascoltato la partita. Andrà bene, oh dai, io mi lascio stare perché lo guardo adesso il volo, credo di controllarlo, a che punto è la cottura della patata o della carota. Dai, se mai troppo in tanti ci siete. Ciao Antonio, ciao Claudio, alle prossime. Ciao, ciao Tony, dai, anche io Antonio rimango in ascolto, ci sentiamo dopo. E io accordo che adesso ci sentiamo. Ma poi io. Ma anche per Claudio. Ciao a tutti, ciao Alessio, ciao anche è andato via forse Cavazzacchi. Oh Claudio, un'informazione, sto trapanando i furi dove c'erano attaccati i radiali della Mantova. Sono sceso un po', ma è tutto autonomo, ma c'è una boccola lunga all'interno. C'è la boccola, ciao Franco, se la boccola è rimasta tutta interna, devi togliere la boccola e poi tutto alluminio. Cavolo, sono sceso parecchio e poi le spacchi tutto, ma se rimane qualche pezzo dentro cosa succede? Di ottone non succede nulla e gli faccio poi la bocca nuova in alluminio di quel diametro lì. Puoi anche fare così come ho fatto io, però io gli ho boccolata di alluminio, capito? Messa dentro in alluminio e poi messo il radiale sempre in fibra e ho tornato. Non devo entrare molto, mica è appena mi cosa è poco quello che deve entrare. Sì, ma sono sceso già a minimo 3 cm e continua a esserci l'ottone fino in fondo, quando mai? Infatti ho detto, non è che c'è una boccola fino in fondo, no? Sì, anche la bocca è sui tre, sì, la misura è quella, quindi c'è tutta la bocca dentro. Lasciagliela fare, non fa niente, lasciagliela, non andare molto, va bene con i 3 centimetri. Sì, adesso poi dal radiale esce un filo di rame, quello lo devo saldare alla boccoletta nuova in alluminio, lo metto nel radiale, nello stesso diametro del foro che sto facendo, così, e poi stringo la vite, dovrebbe essere così più o meno. Il radiale non te ne frega niente del filo, i radiali sono dentro il filo, dentro la fibra, nel radiale in fibra c'è questo filo, ma non te ne frega niente a te. Quello non deve fare massa da qualche parte, nella boccola nuova io gli faccio al radiale, siccome il radiale è uscito solo, diciamo, rimasta solo la resina e il filo che esce fuori, quel filo poi va saldato alla boccola nuova, e se no come fa a fare la massa? Sì, beh, quel filo è fatto a macchina, quindi entra direttamente nella boccoletta d'ottone, sì, incassagliela all'interno. I radiali servono per fare il piano di massa, però l'importante è che sia buono il connettore dove attacchi l'antenna e che sia tutto regolare lì, poi il piano di massa è chiaro che è meglio che sia regolare, però incassaglielo, meglio appena un goccettino di stagno alla bocca la nuova che fai, glielo incassi. Sperando che attacchi all'alluminio lo stagno, blu? Non lo so, non mi è mai successo una cosa del genere, la verità, perché i radiali, ma te ne manca uno di radiale? Allora, sono tutti, però sono tutti senza boccola, perché le boccole sono rimaste praticamente dentro la crociera che dove vanno inseriti tutti i radiali, dai, dove c'è l'attacco del PL e tutto. E sono rimaste tutte all'interno, ne sono saltati fuori i radiali. E quindi devo fare le boccole nuove. Le viti 3 funzionano, una invece si è rotta dentro, adesso l'ho trapanata, e gli metterò una vite normale, da una vite autofilettante per tenere il radiale. Tutto lì. Però tutto sta a trovare un sistema per collegare quel filo che esce dal radiale alla boccola, vai. Non penso che basti solo appoggiarglielo, sarebbe meglio saldarlo. Ho capito, ma come dici tu, cioè saldare quel filo nella bocca d'alluminio, non mi è mai capitato qua, quindi non, no, perché a quel punto io con i radiali li avrei lasciati perdere, e avrei messo dei radiali di alluminio direttamente, per fare un lavoraccio così, capito? Perché tu in pratica non c'hai radiali veri e propri, hai i pezzi della resina e vogliono tutti rimessi le boccole per innestare, giusto? Sì, io ho solo la resina, il pezzo di filo che esce fuori dalla resina. Quello prima era tutto un pezzo con la boccola in ottone che tu inserivi dentro, ma è tutto un casino. Poi ho smontato il PL, sono riuscito a cambiare il filo che va la bobina, l'ho già messo nuovo, appena mi arriva adesso il PL nuovo, c'è cioè la presa da pannello, la nuova, ce la cambio, io lo saldo e mi cerco di abitarla perché le viti, anche lì ci sono rotte 3, mi è rimasta solo una, devo fare qualche foro nuovo per tenere il PL, e poi era tutto una colata di circoli, ho visto all'interno. Stai attento quando fai quel lavoro, perché il filo è molto molto corto, se ti va dentro il filo hai vivo, devi fare pezzi tutta l'antenna, devi fare tutto l'avvolgimento, tutto un casino. Ascolta, Fra, io ti consiglio di lasciar perdere quel lavoro, scendi ancora appena, ma proprio appena, 3,5 o 4, dopodiché ti prendi col calibro il diametro del foro che hai, vai a Bricom, ci sono le barre da un metro e venti, un metro e cinquanta di alluminio, ti prendi anche i tappini, ci sono, ok, li fai a misura, no? A misura del radiale in fibra che hai, e li metti dentro, e ti metti il radiale in alluminio, Fra. Allora, mi sembrano più delicati, però, quindi facciano subito le cornacchie, dai, credo. Allora, se prima provo a riparare, dai, se non riesco poi, perché la misura non lo so, è uguale, o dentro sono caricati quelli in vetroresina, cioè in effetti sono più lunghi di quello che sono. Beh, certo, c'hanno la carica, sì, c'hanno un filo di rame all'interno, non so se l'ho visto, è originato, proprio per fare tutto il piano di massa, e poi c'hanno l'ottone che fa il bagiolatore che entra all'interno del piantone della mantova. Non c'è niente un'altra, tu no, va bene. quindi tu, come l'ultima scheda si può sempre fare così, prima provo a recuperarli. No, quel filo gliel'ho già cambiato, quello diciamo che va dal PL alla bobina, quello l'ho già cambiato, l'ho messo già anche addirittura un occhiello saldato, pronto per arrivare al mollone, dai, quello è già pronto. L'ho fatto uscire fuori dal buco del PL, lì è pronto a saldare, fuori ne ho qua, ne ho 20 cm, ma glielo faccio quasi, cioè il tanto giusto per saldarglielo e poi glielo mando dentro. Glielo metto con silicone come era prima. Un cavo normale, ho messo un cavo da 1,5, più o meno quello che c'era prima, era così. Non so che rame fosse, se era rame di quello, come si dice, mezzo smaltato, poi io metto un rame normale. Massimino Cla, saluto neanche l'amico Franco, mi pare. Cappa, ciao, Bombolo se non sbaglio, sì, giusto? No, non Bombolo, non mi ricordo. E Antonio sono, Bombolo, sì. Ok, ciao Antonio, arrivi a Bombola qua, arrivi. Sei vicino a me, io sono a Sacro Cuore qua. Già rubrido, via. Bene, bene. Sto facendo resuscitare una specie di mantova 1. Con qualche problema, adesso vediamo un po'. Ho già cambiato i riveti perché non sono riuscito a smontarla, ho rimesso i riveti nuovi, non sono riuscito a sfilare l'alluminio dal vetroveste, hai capito, dall'isolatore. La testa, speriamo di non aver danneggiato niente, che regga poi di nuovo il vento. Dai, non c'è problema. Scappa. Sì, pure qua mi arriva a fondo scala, mi arrivi, a voglia, ti sento una bomba. Io sono qua in zona Corso Vicco, dai, Santo Pulinare, in quella zona lì so. Via l'aria siamo molto vicini, anche tu sei qui, oltre il 30 se non sbaglio, ma questo Smith è un baracchino, non prenderlo con così, non è molto affidabile. Beh, non è che siamo tanto lontani, siamo vicini. Ok, riprendi qua, che io mi assento, un attimo mi assento, scusate se vi ho disturbato, ma volevo salutare, ok? Ehi, ciao Antonio, e intanto io adesso mi preparo, non sta piovendo, vado a portare a Filippo. Fammi sapere, se hai bisogno di una mano, di qualcosa, fammi sapere, ok? Grazie, Cla. Adesso la metto da parte perché ho ordinato quella presa, quel PL, era lì alla cambio. Appena arrivo gliela saldo e provo a fissargliela, magari faccio qualche buco, invece di farglielo nei quattro angoli, magari ne faccio due ai lati. Se giro tutto, provo a vedere se non c'era niente in corso. E poi però facciamo il radiale, dai, il resto credo che ci sia tutto. A parte il ragnetto è importante. Il ragnetto che manca, dico, l'isolatore che c'è su in punta, quello è importante. Cazzo, quello che mi chiudo, altrimenti ti si riempirà ancora l'acqua. Non è un ragnetto importante, le volte che metti un tappo glielo si ritoni, se no lì ti entra l'acqua. Sì, quello sì, no, gli farà un tappo di plastica più o meno. No, se è importante, se era importante quello che c'era prima, se avesse una funzione diciamo particolare. No, c'è quello, è un isolatore per i fumi, basta che metti un tappo di sciuola, se lo riempi di silicone, non fa niente. Io non ero, ad esempio, se era rotto non ne ho messo di quella cavetta. Ho messo un tappo di sciuola, l'ho fatto a misura e gliel'ho siliconato, grazie a Dio, va bene. Sì, di quello già non c'è problema, un tappo già si butta, l'importante è che non abbia funzioni particolari per radiare l'antenna. Dai, saluto a tutti, anche quelli che sono all'ascolto eventualmente, grazie ancora per le dritte, Cla, già ci aggiorniamo, ok? Un abbraccio a tutti anche in famiglia, ciao anche a Bombolo Antonio, ok? Riprendi Cla. Ciao Cla, ciao, un abbraccio anche a voi, anche da parte di Anna e di Laria. Ok, se hai bisogno chiamami, non c'è problema, ok? grazie ancora. Ciao, ciao. Ciao, qua ci sentiamo alle prossime. Ciao Pomponio, un abbraccio anche a te. Tutto bene? E a voglia. Ho voglia di chiamare, va bene così per lo velo, adesso, poi boh, si vedrà in seguito. Bene, bene, dai, adesso metto un po' di ordine qua che ha fatto un casino nero. Ciao, ci sentiamo, ciao a tutti. Sì, ciao, ciao, alla prossima. Ciao, ciao, ma papà, ci sentiamo dopo all'inizio, vado a portare il piano. Sì, d'accordo, ok, c'è solo qua a casa, per lo meno. Facciamo riparazioni, quindi vabbè, fai pure, sto qua, quando vuoi chiama. Io ci sentiamo dopo, dai. D'accordo, ok. Come stai crescendo di radio? Una bomba, sì, già, una bomba. KK, 3009 questo qua, non c'è da... No, quello che mi dà preoccupazione è il fatto che non ho sentito ieri a Kosovo. Di solito a Campella li sentivo sempre e con quell'apparato con l'Intec base non li sentivo. Non lo so, non lo so, già, non lo so. Ok, dai, io ritorno tu che ha preparato a mangiare. Ok, non lo so già il perché. Probabilmente la zona negativa non è quella lì, non lo so, volevo provare a attaccare un altro apparecchio, invece non l'ho fatto, per togliermi la soddisfazione per se l'apparecchio oppure se la zona. Sicuramente la zona. Ok, ok, già, esci che scendi, va, se no non mangio più io. Vai, salutami la signora, ciao ciao, ci sentiamo, anche buon appetito. Scappa, preparendi, cioè stava preparando le ultime cose adesso, ha già finito. Ok, ciao ciao, vieni a prendere il caffè a casa, uno di questi giorni. Ehi Anto, se c'ho tempo sì, perché se ho gente a casa come faccio a muovermi? La domenica solitamente vengono a casa a pranzo. Ok, non c'è problema, già lo sai. A casa nostra siamo, quindi no, non c'è nessun problema. No, non ti preoccupare. Ok, ci vado. Ciao, ciao Anto, ci sentiamo. Stammi bene. Avanti, se c'è qualcuno sul 10, cambio. Ciao Gianni, Franco. Uè Franco, come andiamo? Bene, e tu? Avuto detto che hanno avuto problemi all'antenna? Sistemata? Sì, l'ho sistemata. No, problemi non più di tanto. Probabilmente è stato inserito per sbaglio un elemento troppo... abbiamo messo troppo in alto e quindi ha fatto forza lì. Gli ha fatto una filatura, ma niente di che. L'ho riparata con tre fascette d'acciaio, belle strette, e adesso non si muove nemmeno a ruccio. E qui l'hai sistemato. Ho visto anche quella di cosa, di come si chiama, che c'era vicino alla stazione, di Gianni, dove lo fai? L'ultima parte del radiale era piegato a 30 gradi, a 40 gradi. Ne ha piegato parecchie questo vento. Cazzo. Anzi, noi siamo fortunati, Fra, si è sentito cosa c'è in giro, tutto allagato, gente morta, oi. Mamma mia, abiti, papà, ci mai visto cosa? Non ne mancavano già due o tre persone, mancavano disperse quelle che dove sono, papà. Un fiume che scorreva dentro il paese, una roba da notte, guarda. L'allerta meteo c'era, però non mi aspettavo una cosa del genere. Probabilmente il paese è in discesa e quindi chi è in basso si prende tutta la storia, e chi trova passando è un casino, Fra, è un casino. Lui è, per carità di Dio, meglio niente, guarda. Mi stavo uscendo le lacrime a vedere quelle cose, perché io ho sempre fatto protezione civile, servizi ambulanza e cose, io le sento queste cose, capito? Certo che toccano a tutti, quello che toccano a Sardegna, qualcosa di particolare. Ma comunque anche la mia antenna già era, fortunatamente era riparata dalla casa, dai, quindi non era sul tetto, quindi non ha... non è stata sollecitata più di tanto, questa canna da pesca, io la chiamo antenna, ma... Vabbè, sempre funge a quell'incarico lì, funge da antenna, dai. Poi, Fra, è un casino, stavo sempre ascoltando aggiornamenti mentre mi facevo tutte le faccende di casa, dal videolino, sono già tre morti che hanno trovato. Sì, ho sentito anch'io, stavo seguendo il videolino, a pranzo e... ne davano già tre dispersi, quelli difficilmente ne troveranno vivi, purtroppo. No, tre morti sono di sicuro, più ci sono i dispersi. Addirittura ancora peggio, allora. Tu mi ascolti sempre bene, è uguale, ho cambiato qualcosa. Ma ti ricordi l'altra volta, mentre parlavo, mi sono salito le stazionarie a 1000 e non riuscivo a capire cosa fosse? A te? Non mi ricordo se ci fossi anche tu in frequenza. L'ho aperto ieri, praticamente, abitando il PL, ha mandato in tensione, diciamo, il polo caldo che è saldato all'interno dell'apparato e si è staccato quello spettroncino di rame che collega alla scheda, capito? Quindi praticamente stavo uscendo senza il polo centrale. Ecco perché mi sono salito in stazionale, non riuscivo a capire cosa fosse. Vabbè, comunque, al contrario di ciò che dicono, quel cavo che va all'interno non va tirato troppo, va tenuto un po' morbido, perché quando l'antenna flette, se no tirando, strappa tutto, capito? Se troppo in tira. Sì, sì, vabbè, tu l'hai messo all'interno, io ce l'ho all'esterno, tutto quell'impianto che tu c'hai dentro io ce l'ho esterno, non l'ho messo all'interno della canna da pesca. Sì, come dici tu, a parte che il rame è soggetto a dilatazioni, diciamo, si dilata e si contrae il metallo, no? Dentro ci sarà del rame, penso. E quindi ha bisogno di uno spazio. Invece al contrario della resina, che bene o male rimane ferma, della struttura in vetro resina. E poi come dici tu, quando va in flessione con l'antenna, è molto flessibile, deve avere un minimo di tolleranza per accompagnare il movimento. Infatti mi sembra che nelle spiegazioni te lo dice di non metterlo in tira, giusto? Esatto, esatto. Ma molti dicevano mettetelo in tira, che non è così, non è così, perché nel dépliant c'è scritto di non metterlo in tira, di lasciarlo un po' morbido, si tira sì, ma non morto, un po' deve essere morbido. Non deve essere teso, capito? Deve accompagnare il gioco che fa l'antenna, perché se no l'antenna come piega, tira e strappa. E vabbè, noi abbiamo fatto forse l'errore di mettere magari un elemento troppo in su, non l'abbiamo fatto scendere di più, per metterlo proprio in tira, come si diceva. E poi ho guardato e non era da mettere in tira, quindi quell'elemento io l'ho abbassato un po'. C'è anche uno scatto che fa quando tu lo abbassi, quando arriva fa tac, e praticamente l'ho fatto entrare tutto dentro dove c'era il taglietto, dove c'era la filatura, e poi gli ho messo tre fascette una dietro l'altra attaccate come se fosse un pezzo unico, là. Quindi te l'ha lesionata l'antenna, diciamo, la struttura? Te l'ha filata? Sì, sì, filata là. Che fine ha fatto? L'antenna si è un po' piegata, ti è rimasta piegata? È rimasta, sì, leggermente piegata, non più di tanto, non è da penzoloni come certe. Io ne ho visto certe che da troncate, no, la mia no, la mia l'ha piegata un pochino, l'abbiamo scesa giù con Luca, e niente, devo ringraziare a lui che mi ha dato la mano, perché io non sono più in condizione di salire sul tetto, mi vengono cappuccini e cose non va, e poi soffro di vertigini, no, non è mai a me. Anch'io sono una base solida sotto i piedi, non mi fido molto neanche io, da quando ho avuto un incidente in macchina qualcosa mi si è spostato all'interno delle orecchie, sicuramente mi ha modificato l'equilibrio, perché prima non avevo mai sofferto di vertigine. Dopo quell'incidente in macchina ho scoperto di soffrire anch'io di vertigine. Oltre il terzo o quarto piano, per esempio, già mi dà fastidio affacciarmi, così all'improvviso. Però, purtroppo sono così. Se invece sono al centro del tetto, per esempio, che non vedo il vuoto, magari sono tranquillo. Però se vedo un po' del rischio, mi dà fastidio anche a me. Io l'altro giorno ho preso una sedia, dovevo salire sopra la credenza perché avevo messo un pezzo del baracchino che dovevo prendere per una staffa. Beh, fatto sta che sono salito sulla sedia e mi è venuto questo cappuccino di colpo, ce l'ho fatta così così a scendere, a poco non caggio, mi stavo tornando all'indietro. Così, ma io penso che sia artrosi cervicale, perché l'altro giorno mi è capitato che alzandomi dal letto vedevo tutto girare, non capivo cosa cacchio era, poi mi sono messo in un'altra posizione e non sentivo più il capogiro, mi rigiravo e di nuovo capogiro, cazzo, ho detto provato a sedermi, vedevo la casa girare, ho detto no, ma mi gocco d'ora, mi sono coricato, me l'ho preso un po' con calma e poi già mi è passato. Sì, quello è cervicale sicuramente, praticamente c'è qualche cosa che sta andando a premere, praticamente ti manca il sangue verso il cervello, va a mancare qualcosa al cervello e ti gira la testa praticamente. anche per quello il discorso salire sui tetti, ti soffre di queste cose qua, è meglio che non ci salga, che ti può venire lì all'improvviso, cosa fai? No, ma io praticamente sul mio tetto ci posso passeggiare, fra il mio è la terrazza, è tutto con la ghiaia sopra il catrame, insomma è tutto quanto, si può camminare tranquillamente, è una passeggiata. L'unica cosa che salire sulla gabina dell'ascensore un po' mi vengono le vertigini, perché con la gabina, anche Luca me l'ha detto, è pericolosa, perché da una parte c'è la discesa che ti butta giù, capito? Se tu ti viene un cappuccino, la guardi fare giù. Perché ci devi salire di sopra, sulla parte, diciamo, sul vertice, ci devi salire lì? Come? Non ho capito. Dico, ci devi salire sopra la torretta, la cabina dell'ascensore, ci devi salire sopra, sopra, diciamo, il vertice? Certo, devi anche abbassare i pali per arrivare all'antenna, devi abbassare il palo, i tiranti, i pali e poi togliere l'antenna, ma l'antenna mia è leggerissima, quindi è una cazzata, Luca ce l'ha fatta tranquillamente, l'ha rimessa lui tranquillo. Ma Luca Flipper? No, manicomio. Oh, non ricordavo Magrolino. Ma Luca non è così magro, dai, adesso si era magro prima, era molto magro, adesso si ha preso un po' di chili e non sta facendo i muscoli e cose, sta facendo un bel fisico. Ah, è meglio così, dai. L'amore l'ha fatto ingrassare. Come si chiama? Marina l'ha fatto ingrassare, Marina si chiama, sì. Ehi, e fa la roba buona, se lo prende per la gola. Hai visto qualche chilo, anche lui. Vedo. Meglio così, bene bene, che abbiamo risolto anche i problemi. Sì, poco fa stavo restaurando l'antenna, stavo bucando, trapanando dove c'erano i vecchi radiali della mantova. 3 centimetri e continuo a trovare ottone, ma non è che sto facendo un anno, infatti ho chiesto qualcosa a Claudio, qualche informazione a Claudio. Allora chiedi a me che te lo dico io, allora lì ci sono delle boccole. Se è sboccolato ti conviene fare una cosa, andare da Bricco, prendere la misura del radiale e prendere in alluminio. In alluminio però pieno, non quello vuoto, perché l'alluminio pieno tiene di più, perché quello vuoto io l'ho messo le corna che me lo spezzavano. E quando fai, se fai, ti conviene non fare il buco passante, perché indebolisci il radiale, se no. Ti conviene mettere due viti che tengono fermo il radiale. Una da una parte e una dall'altra, viti autofilettanti, di modo che te lo bloccano, però senza passarlo, perché come tu passi il radiale, lo indebolisci in quel punto dove buchi e si spezza. Meglio, quello pieno è meglio, perché va meglio, va. Perché quello là è troppo leggero, ci spetta subito. Ora sono entrato, ciao Gianni. Ciao Claudio. Comunque io l'ho messo, l'ho anche legato con la lenza da grunghi, quella che si usano per pescare i grunghi. Mi hanno spezzato lo stesso perché ho fatto il buco passante, infatti il mio sbaglio è stato lì, non devi fare buco passante, ti conviene mettere due viti autofilettanti da una parte e dall'altra. Ma state parlando dell'antenna di Franco? No, è di Franco. Non devi bucare tutto, non devi bucare nulla, io l'ho boccolata quella che mi hai dato tu Gianni, e se tu la vedi non te ne accorgi neanche che è boccolata. Perché i bocchi essendo larghi, ok, io ho preso l'alluminio che entrava dentro, col martello in pratica l'ho fatto entrare fino alla fine, poi col seghetto tagliati a misura proprio giusto, è data una limatina, il foro non lo devi fare nelle cose, devi tenere già il foro che c'è nel piantone. Una volta che tu metti la vite autofilettante, inizi a vitare, lo blocca, perché anche se non lo piega, se non lo buca la bocca, se non la buca, la intacca, la piega sino a tenere fermo il radiale. Io non ho bucato niente e sono perfetti, poi li ho messi sui cappuccetti e non si vede nulla. E io così fa. Non lo so, ci sono diversi metodi di fare le cose, se si può mettere la boccola è meglio. Ma io Franco gli ho detto quello che vuole fare, io l'ho fatto così. così, io ho boccolato, ma lui praticamente cosa è successo in quell'antenna? Che lui c'ha solo il radiale in fibra, non ha il petto di ottone che entra dentro, il petto di ottone sono rimasti attaccati, quindi lui cosa sta facendo? Col corpo non sta pulendo, sta rifacendo, togliendo l'ottone che è rimasto dentro, ok? Automaticamente il foro è molto più largo adesso quando tu vai a togliere lo bocco in ottone, no? I petti di ottone che sono rimasti dentro. Quindi ho consigliato di fare come ho fatto io. Entra appena appena qualche millimetro in più, poi gli metti le boccole e all'interno ci metti i radiali, capito? E viene un lavoro fatto bene. Ti giuro, non si vede niente, anche perché ci sono i cappuccetti e sembra proprio normale. Io l'ho fatta qui, tutte e cinque, perché tu ci avevi la mandata cinque. Tutte e cinque fuori, io li ho fatti così. Ed è venuto un capolavoro. Ho messo il grasso all'interno, entrati i radiali nuovi, sempre in fibra però, ottonati, e sono perfetti. Capo, no, quei fori li utilizzo, quelli per stringere i radiali, tre ce li ho buoni, quindi quelli li utilizzo. L'altro l'ho già forato, dove c'era la vite tagliata, lì gli metto una vite autofilettante e se no le regolate sono a posto, non devo fare altri fori, basta. Solo le boccole devo fare, se riutilizzo i radiali in vetroveggia, se no cerco, come dici tu, un alluminio della misura ideale, bisogna provarlo, fare dei test. Per un piano di massa e ciccia, dai. Ci sono da bricco. No, ti sto dicendo che se vai da bricco ci sono le barre da un metro e mezzo, da un metro, prendi quello che ti serve, fai radiali da un metro e venti, l'alluminio è meglio fare da un metro e venti, perché quelli in fibra sono 1,60 m, li fai da 1,20 m, non succede niente. Ok, ti prendi sui tappini, che ci sono anche i tappini, in base alla circonferenza dell'alluminio che compri, li metti i tappini in testata, e viene tipo una mantova turbo, capito? E va bene anche perché tu non sei a grandi altezze, come me, come Gianni, e quindi i corvi stanno molto più in alto, capito? E non penso che ti succeda niente, ti viene un bel lavoro. In alternativa, devi rimboccolare per mettere quelli in fibra, perché altrimenti giocano dentro, perché sono più stretti. Se invece ti prendi già l'alluminio, ti prendi la circonferenza col calibro del foro che hai fatto, ti compri l'alluminio già che entri in quel foro, non fai altro che mettere direttamente i radiali, tagliarli a misura e bloccarli con le viti, capito? Ma... Sì, poi alla fine vedrò cosa fare, la scelta migliore. Comunque anche qua è pieno di cornacchie è pieno, perché lo vedo anche le antenne di fronte della televisione, sono tutte distrutte dalle cornacchie, sono maledette qua. Io sono quasi a 50 metri, però ti ripeto, le direttive sono pesanti, quindi i radiali sono bruci. Ma io c'ho i radiali in fibra, c'ho una cosa uno, anche l'altro giorno c'erano due o tre appoggiate sopra, non rispettano. Assolutamente, capito? Chiaro, l'alluminio è più fattibile che rispettino. Se metti radiali corti di alluminio, anziché farli da 1,60 m, lo metti da 1,20 m, che non succede niente al piano di massa. Flette di meno e non rispetta. Poi è buono con l'alluminio che rende bricco, ma è buono, non è, anche se è vuoto è abbastanza grosso, capito? Prova, se hai necessità chiamami, lo sai che non ci sono problemi, avanti già. Un attimo che sto mandando un messaggio. È entrato anche Antonio, se lo sbaglio, con una brutta alternata, Antonio. KK, appena, lo so che c'è appena l'alternata, però no, c'è un po' di freddo acceso, l'ambara va. No, adesso vai bene, l'hai attaccata. No, già lo so, un piano di massa bisogna farli. Lo so che fa così ogni tanto. Di attaccarli la massa da qualche parte. E io non vado a volare, quindi che se gli metto la mano sopra non ne fa alternata. Come gli attorno può fare due alternata. E capa, no, gli ha attaccato proprio il filo di massa adesso. Poi vedi, tu c'hai qualcosa di massa da attaccare, io invece qua non ho nulla, non ho niente, tutto così. Solo l'antenna e buco. Già lo so, già. Cappa. Ehi, mio, ho acceso un pochettino giusto per farla andare, un pochettino, ma dopo lo stacco, dai. Ho acceso un pochettino la barabà. Barabà cicicocò o barabà solo? Sì, barabà cicicocò. dove? Amplificatore ha già acceso. Da quant'è? Un kilowatt e mezzo. quindi mi devo un altro per 1500 watt, già a metà della potenza di casa te la stai giocando. Sì, ma infatti molte volte mi scattava il contattore, perché io ci avevo allora, ci avevo 3 kW che non sarebbe fatto qua, quello portato l'ho fatto aumentare a 4 kW e mezzo, perché altrimenti non riuscivo a lavorare con l'amplificatore, capito? Una volta mi scattava il contattore. Se c'era magari lo scaldabagno acceso, se stavano, c'era il forno acceso, ma anche senza niente acceso scattava lo stesso. E qui l'ho chiamato bene, e infatti io ho ancora 4 kW e mezzo, pago qualcosa in più, però ho 4 kW e mezzo, proprio nel caso voglio usarlo lo posso usare, se no non lo puoi neanche usare, perché ti fa scattare il contattore, capito? Uscimi Anto, da sapigli i valvolari. Oh mamma mia, se non sarà mi cudi, no che? Arrivi cazzo la bollettaccia. No Anto, davvero, tu hai capito l'esperienza, perché quelli a valvole consumano una barca di corrente. Io sono arrivato a pagare anche 350 euro di luce una volta, capito? Ho fatto la prova, era proprio amplificatore, perché lo tenevo molto acceso, molto, e quindi non mi interessa. C'ho quello transistorizzato, che non consuma niente, quando serve magari lo attacchi, vabbè, ma con i crimob io non ne attacco, posso attaccare solo quello valvolare, capito? Quello valvolare, con se no lo treppa. Con quello attorno manco lo incita, a parte il fatto che c'hanno il carretto per poter usare, non sono di gli ignora HF, ci vogliono i carretti per attaccare gli HF, i carretti a parte che danno il consenso a farlo funzionare, capito? C'è un carretto, a volte sono a 2, a volte sono a 4, per fare OLC, BTT, eccetera, capito? Quindi non me ne affrutti nulla. Quello è pronto qua, mi devo attaccare al 430 o al 140, che ho fatto fare il carretto suo, è pronto a attaccare, nel caso serva, è già pronto, lo so attaccare l'antenna e basta. Mentre l'RM Italy è dentro l'armadio perché l'ho attaccato, se dovesse servire lo prendo e l'attacco al baracchino, se dovesse servire, ma non mi serve nulla, se va bene così, riprendi qua. Ma anche non uso proprio niente, io questo dalla, come si chiama, B507, che dipende da come lo piloti, dai 200 ai 300, dai. Adesso lo sto pilotando, lo piloto 4 watt, sui 200, però esce bene di radio. Se aumento perdi molto di modulazione, quindi preferisco uscire meglio, perdendo un centinaio di watt magari, però almeno esco bene. Claudio, potenziometro! Luca, bricchetta! Vabbè, Luca! Claudio! Buonasera, dai, mi ho appena cenato, va. Anzi, ho merendato, un bel, e cenato, vabbè, quasi un bel. Oh, è giù con pieno, come pieno come un uovo. Ciao Franco, riprendi. Oh, ciao carissimo, come va? Ho saputo che hai fatto il funambolo, da Gianni. Ho capito, scusa, ho fatto? Il funambolo, da Gianni. Da Gianni doppio room? Ehi, sei salito tu? Gaffa, sì. Dai, complimenti anche a te allora, beato a te. Ehi, beato a me. Diciamo che allora, claro, già l'hai vista con l'antenna come è messa da Gianni, no? E diciamo che sono riuscito a buttarla giù senza senza passare il palo, mi sa. Se non mi ricordo, vabbè. Però una volta buttata giù, sistemata, mi veniva male a inserire. Ma dici spegni l'alimentatore ogni tanto. Mi senti? Sì. Spento l'alimentatore. No, adesso Claudio. Spentola. Ah, l'alimentatore, Claudio. Non ho capito perché, vai, su riscalda la. A Fannapoli, fusibile. Sembra un termico, no? Eh. Sta